L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta, di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Il 700 e l'800 furono i secoli dell'elettricità. Nel 700 si iniziò a produrla a bassa intensità con delle pile. Nell'800, soprattutto verso la fine, iniziarono le applicazioni industriali. Prendiamo allora le macchine elettriche della metà del 700. Sono gli anni in cui i fenomeni elettrici diventano di grande attualità, perché dal millenario sistema di produrre effetti elettrici strofinando con un panno un pezzo di ambra, ecco, si passa a delle macchine che utilizzano delle parti rotanti, dei globi di vetro, dei cilindri metallici, e così si ottiene molta più elettricità. L'abate Jean-Antoine Nollet, che negli anni dal 1740 in poi era considerato una delle massime autorità europee nel campo delle macchine elettriche, realizzò una serie di esperimenti che entusiasmarono la borghesia e la nobiltà di quei tempi, e invece alle classi che stavano più giù l'elettricità non arrivava. Uno degli eventi più elettrizzanti, è il caso di dirlo, fu quello della commozione elettrica, così fu allora definito. Un anello che arrivava a 140 persone partiva e si chiudeva ai due poli della macchina elettrica. Bastava che la persona al termine dell'anello toccasse con un dito un punto preciso della macchina e una scarica elettrica di una certa intensità si propagava immediatamente a tutto il gruppo. Grida diffuse, bocche aperte per lo stupore nel sentirsi attraversate da un robusto formicolio, mentre nell'aria si diffondeva un odore che, come scrisse l'abate Nollet, ha molto di quel fosforo d'orina e un poco di quel dell'aglio. Gli esperimenti elettrici furono inizialmente ristretti agli uomini, ma questa restrizione durò poco, perché molte nobili donne presero a organizzare in prima persona le serate con macchine elettriche. Anzi, uno degli esperimenti più praticati fu quello della Venere elettrificata, che consisteva nel collocare una nobildonna su un piedistallo di materiale isolante. Dopodiché, con una macchina si elettrizzava la donna, e quando un giovane signore le si avvicinava e la baciava sulla bocca, ecco che partiva una bella scintilla. Intorno ai tanti e continui momenti scintillanti ruotava un'attività scientifica volta a interpretare i fenomeni, con articoli e trattati. Il rigore sperimentale di queste attività era un po' approssimativo, fino a quando Benjamin Franklin non arrivò sulla scena con i suoi studi sui fulmini. E per un pelo non ci perde la vita con i suoi aquiloni che lanciava in cielo proprio durante i temporali. Intorno alla metà del Settecento iniziò nei teatri europei una forma di spettacolo che a noi giustamente sa di incredibile. Sul palco era collocata una bella pila elettrica, anche abbastanza forte. Il presentatore, finto scienziato, la notte prima dello spettacolo si doveva procurare un corpo esanime, un cadavere che di solito era di clochard, di barbone trovato per strada, ma anche e spesso un condannato a morte. Era una pratica abbastanza facile in quei tempi e le autorità collaboravano. Ecco, ci siamo. Due fili usciti dalla pila erano attaccati alla salma e, oh prodigio, il corpo si animava, le gambe e le braccia si scuotevano e in molti casi si aprivano pure gli occhi e la bocca. Niente di sorprendente in realtà, perché nel corpo umano è presente un circuito nervoso che già di suo, quando si è in vita, è percorso da elettricità. Allora, in quegli anni, il fascino dello spettacolo era costruito su un grande interrogativo e una grande possibilità: riportare in vita gli umani. Siamo all'ultima storia elettrica. Agli inizi del Novecento scoppiò una gigantesca querelle tra Thomas Alva Edison e Nikola Tesla. Siamo negli Stati Uniti e si deve decidere se la rete elettrica deve utilizzare corrente continua, che è la proposta di Edison, o quella alternata, suggerita da Tesla. Dunque, figliolo, ha la lettera? Sì, signor Edison. Con questa lettera le presento il signor Nikola Tesla. Bene, Tesla. Ora è stato presentato. Ciò di cui sono venuto a parlare oggi potrebbe essere utile a tutta l'umanità. Ho tutto qua, signore. Ecco, come può vedere, è un campo magnetico rotativo. E lei è convinto che funzioni? Ma certo, qui non c'è perdita di energia, nemmeno sulle grandi distanze. Ah, direi che ha dimenticato qualcosa, giovanotto. Non ha messo il commutatore. Ma non occorre, signor Edison, questa è corrente alternata. Alternata? Sì, signore. Usando la corrente continua, occorrerebbero più di 100 centrali soltanto per illuminare la città di New York e nonostante ciò le periferie sarebbero al buio a causa della perdita di energia. Ma con il mio sistema sarebbe sufficiente una centrale per illuminare tutta la città e anche tutto lo Stato. La società Edison si lancia in una sfida all'ultimo sangue contro Tesla e decide che bisogna scendere nelle piazze. Come? La corrente alternata, che indubbiamente ha molti vantaggi, è però più pericolosa per gli esseri viventi se con essa si viene in contatto diretto. Allora gli edisoniani girano il paese montando dei palchi nelle piazze, sottoponendo a scariche elettriche di alternata animali d'ogni tipo, facendo vedere che muoiono rapidamente. Il tour ha un suo momento di apoteosi a New York, quando un'elefantessa di 3 tonnellate viene condannata a morte alla presenza di qualche migliaio di cittadini. Comunque, vinse Tesla con l'alternata, questo per la storia delle tecnologie. Signore e signori, per dimostrare quanto ho esposto, interromperò per un istante la corrente continua e illuminerò questa sala con il mio generatore. Spegnete le luci! Questa, signore e signori, è la corrente alternata. Finalmente il riconoscimento che si merita. Bravo, Nick! Bravo! Da Ravenna. In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.